9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Buongiorno cari ascoltatori, buon lunedì 20 agosto, Oscar Giannuno vi saluta. Siamo tornati alla versione di Oscar dopo 2 settimane di stop. Avete fatto un po' di digestione di giornalisti del Sole 24 Ore in queste 2 settimane, ma è giusto, io di solito ne chiamo un po' poco, è un'altra maniera con cui la direzione me lo fa notare evidentemente. Ora invece torniamo ai temi scottanti del giorno e mi auguro anche che in queste 2 settimane abbiate trovato il tempo di andare sul sito www.fermareildeclino.it, perché intanto siamo arrivati praticamente a 20.000 sostenitori e vi invito ad andarci, perché sarà uno dei temi sui quali analizzeremo lo Stato italiano ora che questa estate calda è ancora in corso, ora che leggiamo su Der Spiegel che il 6 settembre potrebbe forse entrare in funzione uno scudo protettivo anche della BCE al raggiungimento di un certo andamento dello spread. In realtà la crisi è ancora aperta e soprattutto mentre il caldo dell'estate ancora vi colpisce, fate il conto dei pochi giorni oramai, qualche settimana, qualche mese che vi separano dalle elezioni nelle quali bisognerà capire se c'è uno schieramento capace di avere idee per le quali l'Italia possa tenersi in piedi da sola oppure se l'Italia continui a essere alternativamente interessata da quella che resterà la nostra sigla fino a che le cose saranno così, cioè The End, The Doors, vengo anch'io, no tu no, il no tu no ovviamente è la risposta che ci viene riservata da coloro che ci dicono siete euro deboli e siete euro ridicoli perché i vostri politici hanno mentito, hanno raccontato balle per 20 anni, hanno fatto più spesa, più tasse, più debito e sono questa la triade della credibilità italiana. Torniamo a sentire un secondo Iannacci, va. Capire che per tutti è una cosa normale e vedere di nascosto l'effetto che fa. Ok, stop, l'effetto che fa. Il 20 agosto San Bernardo, però noi rientriamo nell'analisi dei problemi quotidiani e ci occupiamo oggi del caso Ilva. Sapete, per chi se ne fosse un secondo distratto, la vicenda dell'Ilva, della più grande acciaieria europea con la produzione a ciclo continuo, cioè con colate a caldo, è arrivata a un punto delicato. Si è tenuto venerdì scorso un incontro al quale hanno partecipato esponenti delle autorità di governo nazionale, i ministri Clini, Passera e esponenti di governo delle autorità locali della regione Puglia. Hanno partecipato i rappresentanti dell'impresa e i rappresentanti dell'associazionismo d'impresa di Taranto. Stiamo parlando di uno stabilimento che rappresenta il 75% del PIL della provincia di Taranto, il 65% delle movimentazioni del porto di Taranto. Hanno presenziato anche i sindacati. In sintesi estrema, dopo che eravamo arrivati a un punto nel quale i GIP di Taranto, Todisco, aveva, senza neanche attendere il deposito delle motivazioni del Tribunale del Riesame, nel quale non si parlava di stop alla produzione per la messa in bonifica dello stabilimento, siamo arrivati a un punto nel quale il governo, che aveva detto faremo impugnativa di fronte alla Corte Costituzionale, ha offerto invece una lettura meno conflittuale al provvedimento di custodia cautelare che impone lo stop del GIP Todisco, perché il GIP Todisco ha ribadito che bisogna procedere allo stop. Il governo ha detto andiamo di fronte alla Corte Costituzionale, ma venerdì, all'incontro di venerdì, ha proposto e illustrato un'altra strada, una strada nella quale una nuova autorizzazione integrata ambientale, dopo quella concessa 1 anno e mezzo fa, 2 anni fa, rispetto alla quale il TAR aveva dato ragione all'azienda, tenete bene conto che la magistratura amministrativa aveva detto che l'azienda era in regola con quella di fronte a chi eccepiva che non lo era abbastanza, ma il governo dice procediamo rapidissimamente all'apertura e alla chiusura di un nuovo iter, di un'autorizzazione integrale ambientale, nella quale mettere nero su bianco i nuovi impegni attraverso cui realizzare ciò che chiede la magistratura, cioè l'accelerazione della messa in bonifica delle lavorazioni ai fini del contenimento delle emissioni tossiche a tutela del lavoro e a tutela della popolazione e dell'ambiente. Evitiamo, dice il governo, di sollevare il conflitto di attribuzione di fronte alla Corte Costituzionale in cambio del fatto che ci sia una convergenza sulla ragionevole interpretazione che la messa in bonus della produzione sia del tutto compatibile con evitare lo stop alla colata a caldo. Allora, di fronte a questo che è stato l'ultimo sviluppo di una vicenda, in attesa di capire come il procuratore capo Sebastio, che è sempre sembrato non di questa linea, e come il GIP Todisco, che ha scritto nero su bianco che bisogna andare allo stop, reagiranno a questa impostazione offerta dal governo, tentiamo di sentire le diverse voci che insistono su questa vicenda. Io mi limito a dire ciò che già sapete, se avete letto quello che ho scritto in queste settimane. In sintesi, non esiste un solo paese avanzato in cui si decida di uscire dall'acciaio, perché di questo si tratterebbe, visto l'impatto che ha questa acciaieria non solo sul gruppo, che è il 20° gruppo acciaiero mondiale, il gruppo Riva, che nel 95 divenne proprietario all'atto della privatizzazione del gruppo, dopo che lo Stato aveva dissipato di Italsider l'avviamento, il valore, la redditività. I privati lo hanno preso in mano, gli hanno dato mercato, gli hanno dato di nuovo efficienza, ma si trovano a dover affrontare il punto sul quale la magistratura di Taranto, dopo più di 3 anni di indagini, ha colato un pugno di ferro dicendo: qua mandiamo in carcere i proprietari e mandiamo in carcere un po' di dirigenti. In carcere significa custodia cautelare, anche se ai domiciliari, e alcune parti dello stabilimento mettiamo i sigilli. Allora, sentiamo innanzitutto qual è l'opinione su questa ultima versione di ragionevolezza offerta all'incontro di venerdì, e cominciamo con Bruno Ferrante, che è il presidente del gruppo. Ferrante è stato funzionario di prima fila dello Stato prima di assumere questo incarico, e qui con noi lo ringrazio per pochi minuti. Presidente Ferrante, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, qual è l'impressione che ha avuto venerdì? Cosa si aspetta nei prossimi giorni e nelle settimane? Qual è la posizione dell'azienda rispetto alla richiesta di investire di più? Erano 136 milioni di cui si è parlato venerdì scorso. Sì, la linea del governo dettata a Taranto venerdì scorso è una linea condivisa da Ilva, e la linea che noi abbiamo sempre sostenuto, vale a dire investimenti e interventi per porre in sicurezza, risanare l'ambiente nella misura in cui ciò è necessario, dialogare e confrontarsi a tutti i livelli, quindi a livello del governo nazionale, quello regionale, e rispondere anche alle sollecitazioni che vengono dalla magistratura. Io credo che la strada della ragionevolezza, del buonsenso, e non quella del conflitto a tutti i costi, è la strada che può aiutare, che può condurre alla soluzione di questo problema, che è un problema, come diceva lei, molto importante e grave, non soltanto per la Puglia, per Taranto, ma per l'intero sistema Italia. Presidente Ferrante, uno dei filoni concomitanti che giustamente i media avvicinano alla vicenda relativa ai provvedimenti della magistratura per quello che riguarda la messa in bonus della produzione è quello di indagini in corso per corruzione, sui quali un dirigente Archinà e poi componenti di autorità e politici sono coinvolti. Lei, all'apprendere di queste indagini, ha assunto una misura immediata ed energica, allontanando il dirigente del gruppo che era coinvolto. Questa vicenda, a sua opinione, che impatto ha rispetto a come la politica, le autorità affrontano il nodo di una decisione se continuare o meno intanto nella produzione? No, l'indagine per corruzione di cui io ho avuto notizia nel corso dell'udienza del Tribunale del Riesame, e per la quale sono intervenuto immediatamente, perché le parole che ho letto sulle intercettazioni depositate erano parole francamente non tollerabili, quindi bisognava fare un momento di chiarezza, e questa è la mia intenzione, per cui ho allontanato immediatamente Archinada, i suoi incarichi, quindi non può rappresentare l'azienda da nessuna parte e in nessun luogo. Detto questo, è chiaro che l'indagine sulla corruzione getta un'ombra sull'intero sistema Taranto, però noi dobbiamo prescindere da questo. Noi abbiamo da tutelare prima di tutto tanti posti di lavoro, dobbiamo tutelare i lavoratori e le loro famiglie, dobbiamo tutelare l'ambiente e la salute di Taranto, ma mi consenta, dobbiamo tutelare anche un'azienda. Un'azienda, vorrei ricordare, che in tutti questi anni non ha distribuito dallo stabilimento di Taranto dividendi ai suoi soci. Uno stabilimento che ha reinvestito tutto l'utile, 4 miliardi e mezzo di utili sono stati completamente reinvestiti nello stabilimento per il rinnovamento tecnologico. Ilva oggi è lontana anni luce dalla Italsider degli anni 60. 1 miliardo e 100 milioni sono stati investiti soltanto sull'ambiente, quindi sul risanamento ambientale. Nell'incontro con il governo noi abbiamo detto che oggi, in questo momento, mentre parliamo, noi abbiamo un investimento di 146 milioni esclusivamente sull'ambiente. Naturalmente bisognerà fare ulteriori investimenti a seguito della revisione dell'AIA, quindi noi da questa mattina siamo al tavolo del Ministro dell'Ambiente per discutere della nuova AIA, della nuova autorizzazione. Noi abbiamo rinunciato a tutti i ricorsi che erano stati presentati al TAR, dove, come lei ha ricordato, avevamo vinto. Ecco, tutto questo impegno dell'azienda ha un senso, ha una sua credibilità se c'è un futuro, se ci sono prospettive. Se qualcuno ci dice dovete chiudere lo stabilimento, è chiaro che nessuno sarebbe disposto a fare degli investimenti, ma io credo che anche dietro le decisioni della magistratura ci sia un senso magari non espresso, non detto, ma la messa in sicurezza, il risanamento dell'ambiente, tutte queste iniziative vanno verso una direzione che è quella di continuare a tenere acceso lo stabilimento, a far funzionare lo stabilimento, a far funzionare gli impianti. D'altro canto si sa bene che nel momento in cui si spegne un altoforno, quell'altoforno è morto per sempre. Ecco, io credo che a questo nessuno voglia arrivare. Presidente, un'ultima domanda. Pare di capire che alla radice della convinzione, opinione mia, quindi io la attribuisco come interpretazione, del GIP Todisco sulla risoluta linea ribadita da parte del GIP, per il quale la messa in bonus della produzione non può che identificare lo stop alla produzione, cioè le uniche attività autorizzate all'interno dell'insediamento sarebbero esclusivamente quelle della messa in bonus, quindi stop alla colata a caldo, derivi dal fatto che siccome le perizie alla base sulla base delle quali il GIP ha accolto le richieste della Procura di Taranto sono relative al fatto che il più della provenienza delle emissioni che polveri eccetera eccetera e sostanze tossiche che avrebbero per decenni inficiato la vita di chi lavora nello stabilimento e della popolazione deriverebbero dal parco minerario e dalla coccheria, cioè dalla maniera in cui nello stabilimento è tradizionalmente organizzata all'aperto la custodia delle materie prime rispetto alle quali poi con la colata calda si realizza l'acciaio, dice il GIP o pensa il GIP, visto che l'intervento rende necessario l'incapsulamento di queste aree che sono invece all'aperto, è evidente che la colata calda che ne discende per conseguenza non può più avvenire. Ma questa impostazione tecnica, per così dire, sempre ammesso, la stiamo attribuendo al GIP, ma ovviamente è un'estrapolazione dei suoi testi, è tecnicamente, secondo lei, se fosse questo il punto, come si risponderebbe per dire si può comunque produrre mettendo in sicurezza quelle aree da cui proviene il più delle emissioni? No, noi siamo convinti che interventi per attenuare l'impatto delle polveri, anche quelle provenienti dai parchi minerali, siano possibilissime e sono in corso. Noi in questo momento stiamo realizzando una barriera, una rete molto alta, alta 21 metri, lunga 2 chilometri, una barriera che serve proprio a contenere queste polveri. Queste sono disposizioni che c'erano state date dal Ministero dell'Ambiente e che noi stiamo attuando in questo periodo. Naturalmente altri interventi in questa direzione ce ne possono essere. Tenga conto che lo stabilimento è stato all'origine, quando è nato, posizionato male, perché i parchi minerali sono stati collocati troppo vicino a zone abitate che poi sono cresciute nel tempo, perché quella zona abitata che era più piccola negli anni è cresciuta notevolmente. Devono essere realizzate ancora delle colline che devono fermare le emissioni dei parchi minerali, però tutto questo può avvenire se il ciclo produttivo e l'attività degli impianti prosegue, altrimenti se noi decidessimo di fermare l'attività, questo vorrebbe dire la fine dell'azienda. Mi piace ricordare una frase del ministro Passera: se si chiude non si riapre, e il senso è proprio questo. Quindi noi dobbiamo lavorare per il risanamento, ma si può risanare soltanto tenendo attivi gli impianti. Ecco, questo è un passaggio che è scritto anche tutto sommato nelle ordinanze, perché quando il GIP e il Tribunale del Riesame dicono risanare, mettere in sicurezza, vogliono dire che bisogna continuare a tenere accesi gli impianti, perché se si spengono gli impianti non ci può essere assolutamente messa in sicurezza. Allora, questo è un punto aperto su come interpretare il fatto che nel Tribunale del Riesame non si parlasse affatto di stop della produzione rispetto al GIP Todisco, che è intervenuto poi prima del deposito delle motivazioni dicendo no, non c'è alternativa a questo. Lei come, ovviamente è molto delicata la materia, io devo fargli come giornalista la domanda, l'azienda come prende queste prime reazioni che sono apparse sulla stampa locale del procuratore Capo Sebastiano, che è sembrato non aver cambiato linea anche dopo la proposta della Palma dell'Olivo, per così dire, data dal governo alla magistratura venerdì? Ma io non ho avuto nessun contatto diretto con il procuratore della Repubblica, però ritengo che questa posizione di ragionevolezza e di buonsenso che è stata espressa dal Tribunale del Riesame, credo che sia una posizione che tutta la magistratura, autorità giudiziaria, chi deve come il procuratore vigilare sull'esecuzione dei provvedimenti devono condividere. È una posizione di buon senso che indica una strada che salva l'ambiente, salva la salute, ma salva anche tanti posti di lavoro. Io credo che il procuratore questo lo abbia assolutamente ben chiaro. Allora, io ringrazio il presidente dell'IVA Bruno Ferrante, che poteva stare con noi solo fino a 25, ne abbiamo abusato per un minuto in più. Grazie a lei. E sono con noi adesso il presidente di Confindustria Taranto, Enzo Cesario. Buongiorno. Buongiorno ai suoi ascoltatori. E il professor Antonio Calabrese, che insegna ingegneria delle tecnologie industriali al Politecnico di Milano. Buongiorno, professor Calabrese. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti e anche a tutti i radioascoltatori. Posso chiedere al professor Calabrese di spiegare a chi non è un esperto di impianti a ciclo continuo di acciaio, cioè non ha molto l'idea, tranne forse se abbia visto un'immagine per televisione di che cosa sia una colata a caldo, del come e del perché sia o meno fondata la tesi di chi dice: quando si spegne un impianto di questo tipo non è che poi lo si riaccende in una settimana. E poi di darci la sua opinione sul fatto se in impianti di questo tipo, quelle caratteristiche che ci ha ricordato il presidente Ferrante, che sono le caratteristiche di un insediamento antico, pubblico dell'acciaio, e quindi di una organizzazione del parco minerale Cocherì che non è certo all'altezza dei tempi per quello che riguarda l'isolamento ambientale, perché il più delle polveri sottili che poi vanno nella città, nei polmoni della la gente per cui si muore di cancro eccetera, viene di là, non viene dalla lavorazione a caldo, cioè dell'anidride carbonica, se condivide l'opinione del presidente Ferrante che si possa mettere in bonus questi il parco minerale e la Cocherì in continuità delle lavorazioni. Su questi due punti il professor Calabrese che ci dice? Ma guardi, lei mette sul piatto parecchi temi. Dunque io partirei dall'impianto in primo luogo. Dunque, ovvio che tecnicamente si può fare quasi tutto, quindi si può anche pensare di fermare l'impianto, però si tratta di capire quali sono le implicazioni di una scelta di questo tipo, tenendo conto che non si tratta di una macchinetta del caffè che uno l'accende e la spegne in funzione delle esigenze, in maniera immediata. Si tratta di un impianto, come diceva appunto, come si ricordava prima, di un impianto a ciclo integrale che è molto complesso. Ricordiamoci che impianti di questo tipo ce n'è circa una decina in Europa. Impianto a ciclo integrale significa che si parte dal minerale di ferro, ovviamente oltre al carbone più altre sostanze come il calcare eccetera, e l'impianto restituisce attraverso un processo complesso acciaio in forma di lamiere, di coils, di tubi di varia fattura. Ma è un impianto per cui se, ripeto, facendo l'analogia di una catena, se si spezza un anello si rompe la catena, quindi non si può pensare ad esempio di fermare l'aria a caldo senza avere una interruzione totale, completa della produzione. Bene, ciò detto, c'è anche da osservare che questa tipologia di impianto viene progettata per funzionare continuamente per parecchi anni di seguito, almeno 8-10 anni di seguito, confermate che vengono programmate in funzione degli interventi di manutenzione straordinaria o interventi di miglioramento, dell'efficienza, di miglioramento della produttività, di miglioramento delle emissioni ambientali, cosa che perlomeno leggendo mi risulta essere stata fatta. Ecco, allora non si potrebbe interpretare un intervento di questo tipo per l'attuazione di ciò che chiede la magistratura come se fosse una manutenzione straordinaria aggiuntiva rispetto a quella già prevista nel ciclo di manutenzione dello stabilimento? Direi in linea di principio direi di sì, poi bisognerebbe conoscere bene esattamente lo stato dell'impianto, qual è lo stato di avanzamento degli interventi che comunque sono già stati programmati eccetera eccetera. Però appunto siccome interventi di questo tipo sono stati fatti, si fanno normalmente ma senza bloccare diciamo il funzionamento e la produzione, io penso che si possa tecnicamente, perlomeno se c'è la volontà di farlo chiaramente, tecnicamente prevedere di fare questi interventi senza necessariamente dover bloccare la produzione. Perché fermare un impianto di questo tipo completamente ha delle implicazioni non piccole, sia di carattere tecnico che di carattere economico e mi permette di dire contrattuale, e implicazioni anche ovviamente di carattere organizzativo che tutti immaginano. Cioè significa l'azienda, per quello che riguarda il gruppo Riva, l'azienda l'ha detto chiaramente, significa lo stop praticamente immediato e contestuale degli impianti del gruppo a Novi Ligure e a Genova, significa poi naturalmente per tutti i gruppi italiani che si riforniscono per milioni di tonnellate l'anno di acciaio dall'Ilva di Taranto di dover procedere onerosissimamente all'acquisizione di acciaio equivalente, di volumi equivalenti, di qualità equivalenti da fornitori stranieri. Il ministro Passa ha sintetizzato dicendo che sarebbe l'uscita dell'Italia dall'acciaio, da quello che resta dell'acciaio, un favore fatto in buona sostanza alla Cina e a Russia. Ma resta, naturalmente, io ringrazio il professor Calabrese, resta l'interrogativo di fondo. Sì, sarà pure per il fatto che è stato lo Stato a fare l'industria pesante e a farla nei centri delle grandi città, perché in realtà il Val di Taranto è un residuo della scelta dell'Itarsida, dello Stato, decenni e decenni fa, all'inizio del secolo scorso, ma oggi è ancora compatibile realizzare processi produttivi di questo tipo con insediamenti al centro delle aree urbane e con effetti come quelli che si sono prodotti a Taranto? Noi avevamo chiesto, a dirvi la verità, per onorare il nostro mestiere, per sentirci a posto con la coscienza, di intervenire oggi anche ai rappresentanti del comitato dei cittadini e lavoratori liberi e pensanti, che sono coloro che a Taranto per esempio hanno interrotto la manifestazione dei sindacati che sono a favore di questa stessa linea di ragionevolmezza, cioè di dire si può procedere insieme alla messa in bonus e alla continuità della produzione. Il comitato cittadini e lavoratori liberi pensanti dice no, è sulla linea di Bonelli dei Verdi che sentimmo due settimane fa, che dice la nostra opinione è che oramai si può solo pensare alla bonifica, ma bisogna chiuderlo questo stabilimento per le vittime che ha fatto, per i danni che ha provocato a chi vi lavora e alla vita dei cittadini di Taranto. I rappresentanti del comitato cittadini e lavoratori liberi e pensanti non siamo riusciti a pescarli, cioè nel senso che loro ci hanno detto noi parleremo volentieri, però siamo in turno di produzione dalle 5 del mattino fino alle 2 e non possiamo mentre lavoriamo rispondere alle vostre telefonate, perché altrimenti saremo passibili di sanzioni disciplinari. Io credo che registreremo, se riusciamo a riacchiapparli, e vi proporremo la loro testimonianza, perché a onor del vero non mi sembrerebbe di fare buona informazione se non rappresentassimo direttamente la voce di chi dice: qui il livello di tollerabilità è stato superato, non si può più avere uno stabilimento di questo tipo. È una posizione che dice: si può trovare un ragionamento economico alternativo a questo. Io sono fondamentalmente convinto che non sia così, però io non voglio apparire, e non sono, indifferente a migliaia di morti di cancro e alle condizioni che chiunque abbia visto Taranto, abbia attraversato Taranto, sa essere quelle che a Taranto ci sono. Ripartiremo da questa questione, quella della alternativa terribile tra ambiente e vita da una parte, e dall'altra una roba che è il 75% del PIL di un'intera provincia ed è il 65% della movimentazione del suo porto, e che ha un impatto economico nazionale, cioè la colata a caldo dello stabilimento dell'Ilva di Taranto, per capire se questa terribile alternativa ha una risposta diversa di economia che continua a difendere nell'Italia, che va giù quel po' che si può difendere, che bisogna difendere, ma contemporaneamente che dia un occhio non solo comprensivo, ma finalmente comprensivo alla vita e alla salute di chi ci lavora e di chi ci abita a Taranto. Fatemi dire che nel corso di queste due settimane di sospensione i punti di fondo per i quali ho continuato nei mesi, anche quando mi si diceva che ero un corvo, qualcuno infatti mi ha salutato come: è tornato il corvo, salirà lo spread. E magari, amici miei, dipendesse da me e dalla mia presenza e dal fatto che coi Doors vi diamo uno shock psichedelico tutte le mattine per ricordarvi però che questo paese ha delle ragioni di fondo proprie per non essere credibile, ripeto, per non essere credibile agli occhi dei propri partner, agli occhi dei mercati e agli occhi di decine e decine di milioni di italiani, dopo 20 anni in cui più spesa, più debito, più tasse sono stati il vero sentiero che la politica vi e ci ha regalati. Ecco, di questo quadro di non credibilità, che mi spinge a dire che risentirete ancora i Doors, fa parte anche una vicenda come quella dell'Ilva, che ha il suo merito, cioè l'oggettiva terribile contrapposizione tra controlli amministrativi e ambientali che per anni sono andati avanti e rispetto ai quali l'azienda era in regola, tanto che vinceva i TAR quando l'agenzia ambientale faceva rilevare la sua impressione che fosse indietro rispetto ai programmi di investimento sull'ambiente. Ricordo che negli anni i Riva, che sono ancora agli arresti domiciliari, e naturalmente qualcuno di voi applaude dicendo che anzi bisogna mandarli in carcere, benissimo, io rispetto tutti i punti di vista, ma hanno investito 1.4 miliardi di euro su 4 miliardi in ambiente. Negli anni i controlli ambientali amministrativi davano loro ragione. C'è un'inchiesta che è un altro pezzo di questo schifo di vicenda, che è la perfetta sintesi italiana, visto che anche i dirigenti dell'Ilva corrompevano, a quanto pare dalle intercettazioni, i media e gli stessi componenti delle autorità ambientali per avere giudizi a proprio vantaggio. Ma poi arriva improvvisamente la magistratura penale e dice: va bene, visto che i controlli ordinari non funzionano, noi facciamo chiudere disponiamo la messa in bonifica. Messa così, nessun altro paese avanzato dispone l'uscita da un intero settore produttivo per via di giustizia penale. E non si tratta di far polemica sui giudici, si tratta di farvi riflettere, amici in ascolto, sul fatto che anche questo contribuisce a far perdere credibilità verticale al nostro paese. Quale azienda multinazionale, quale fondo di investimento mette i propri denari a rischio di non ritorno perché improvvisamente è un giudice a dire si chiude? Attenzione quindi, perché l'ho detto prima della pubblicità, c'è l'esigenza della salute e dell'ambiente assoluta, per decenni trascurata, è evidente, che si deve però alle scelte fatte dallo Stato, prima che lo Stato dissipasse reddito, patrimonio e mercato di quello stabilimento, ricorrendo poi ai privati che ci hanno messo soldi, lo hanno rimesso in piedi e hanno a quel punto dovuto affrontare negli anni la richiesta della messa in bonus. Ma dall'altra parte c'è anche il fatto di non apparire come un paese di matti agli occhi del mondo, un paese che esce da un intero settore perché c'è un collasso di credibilità, che è pubblico, che è privato, ciascuno che dà rimbalza la cosa agli altri, si arriva all'idea del conflitto di attribuzione di fronte alla Corte Costituzionale, poi il governo fa marcia indietro, c'entrano anche la vicenda dello scontro, l'intercettazione nel frattempo tra Monti e la magistratura. A questo punto vediamo se la ragionevolezza davvero A è possibile, cioè produrre e la messa in bonus insieme, e B è possibile, perché voi capite che se il GIP di Taranto e il procuratore della Repubblica di Taranto ribadiscono che loro sono i dominus dei provvedimenti cautelari, beh, non se ne esce, bisognerà a quel punto davvero andare a una richiesta di chiarimento di fronte alla Corte Costituzionale. Sentiamo come la pensa rispetto a questo nodo e agli impatti economici che ha su Taranto, sulla produzione in Puglia, ma anche a livello nazionale, Enzo Cesaro, il presidente di Confindustria Taranto. Buongiorno presidente. Buongiorno a lei. Che impressione ha dell'incontro di venerdì? È un binario ragionevole oppure ci saranno nuovi colpi di scena da parte della magistratura, secondo lei? Ma l'incontro di venerdì mi dava l'impressione appunto di essere su un binario estremamente ragionevole. L'azienda dichiarava la sua volontà a continuare un programma di investimenti con un cronoprogramma anche abbastanza attivo e veloce per quanto riguarda tutta la parte di ambientalizzazione, e si andava verso il rilascio di una nuova AIA che a questo punto avrebbe contenuto tutta una serie di prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle che erano state previste nella vecchia autorizzazione. Mi sembrava e mi sembra che in questa maniera si possa affrontare un percorso di ragionevolezza. Io gli ultimi riscontri, siccome sono all'estero, gli ultimi riscontri avvenuti dopo venerdì non li conosco dalla stampa, li apprendo adesso da lei. Ho sempre sentito parlare il procuratore della Repubblica di estrema ragionevolezza e di volontà nel far continuare la produzione dello stabilimento, perché gli effetti economici che ne deriverebbero dalla chiusura sono estremamente deleteri e pericolosi per l'intera economia ionica, ma non solo ionica, ma come ha ricordato lei, per tutto il sistema Italia. Noi saremmo l'unica nazione che si priva di attività a capital intensive, sicuramente meno aggredibili dai paesi emergenti, il tutto proprio a favore di questi. E quindi su questo siamo molto preoccupati. Noi come Confindustria, tra l'altro, avevamo anche avanzato una serie di proposte, perché noi riteniamo che lo stabilimento sia ambientalizzabile, si possa coniugare, si possa finalmente smettere di questo muro contro muro fra salute e lavoro, perché è un assurdo proprio ideologico. Noi riteniamo assolutamente che si possa ambientalizzare. Abbiamo in animo tra l'altro di presentare un progetto che preveda ovviamente non l'ambientalizzazione all'interno dello stabilimento, perché quella la lasciamo all'azienda, ai tecnici, in concomitanza con la magistratura e con chi ha il dovere di tirar fuori le norme. Noi paventavamo una sola necessità, richiedevamo e l'azienda tra l'altro mi sembra che nell'incontro di venerdì abbia chiesto le medesime cose, la certezza della norma, perché in effetti un imprenditore, se deve investire, deve sapere alla fine che poi questo stabilimento può produrre, può quindi nel tempo ammortizzare i suoi investimenti e quant'altro. Se chiaramente la partita si cambia man mano che si gioca, diventa difficile pensare, ma non solo per il gruppo Riva, ma anche per qualsiasi altro investitore estero che dovesse venire a pensare di investire sul nostro territorio, diventa difficile pensare di effettuare degli investimenti dove non vi è certezza della norma. E su questo credo che, voglio dire, in tema ambientale la Regione Puglia sia all'avanguardia, ma tra l'altro con provvedimenti, anche l'ultima legge regionale, ancora necessità di un regolamento di attuazione. Insomma, ritengo che bisogna lavorare molto per dare certezza, molto e velocemente per dare certezza alla norma. Poi abbiamo parlato anche di Smart Area. Noi ci candidiamo come Confindustria a presentare un progetto per quanto riguarda il discorso delle bonifiche, che preveda un percorso più ad ampio raggio, perché noi stiamo parlando dell'Ilva, ma noi non dobbiamo dimenticare che Taranto è una città a forte vocazione industriale, dove incidono grosse realtà industriali e dove tra l'altro la presenza dello Stato è stata massiva per l'ultimo secolo, perché partiamo da 120 anni fa, quando venne installato l'arsenale marina militare, i cantieri navali, per poi arrivare allo stabilimento Ilva, Eni, Cementir e quant'altri. Ora, il porto, come lei ricordava, non avrebbe grande ragione di esistere al momento se non vi fossero movimentazioni industriali. Quello che non abbiamo detto è che oltre al 75% del PIL della provincia ionica, la stessa Ilva incide per il 20% sull'export della Regione Puglia, che tra l'altro risulta essere il motore del Mezzogiorno, anche in virtù delle esportazioni che derivano dal comparto siderurgico. Noi riteniamo appunto che vi siano le possibilità di ambientalizzarlo, molti studi sono già stati fatti, molto è stato già fatto dall'azienda, molto altro ancora si deve fare, ma si può fare, lo si può fare anche molto, molto celermente. L'ipotesi nefasta della chiusura dello stabilimento preferiamo in questo momento proprio non considerarla, perché noi vorremmo darci un'opportunità, e quindi per questo voglio dire anche il presidente Vendola nell'incontro di venerdì chiedeva impegno massimo al governo. Noi vorremmo far sì che Taranto, da città fortemente industriale quale è, diventasse anche la città meglio ambientalizzata d'Italia. C'è una specie di vicenda che paradossalmente dalla condizione di estrema polemica e da contabilità esasperatamente opposta dei danni o dei benefici passi a essere una specie di esempio non solo per l'Italia ma per l'Europa di come si può affrontare insieme questa duplice esigenza, quella del lavoro ma quella della salute e dell'ambiente. Io ricordo tutti che tanto in ogni caso anche nella graduatoria europea e anche in quelle stilate dalle associazioni ambientaliste per comparazione internazionale dell'impatto degli stabilimenti non è affatto nei primi posti. Noi le centrali, per esempio gli insediamenti industriali che hanno maggiore impatto sulla salute e sull'ambiente restano per esempio quelli delle centrali a lignite senza filtri di abbattimento, che ci sono sia in Germania ancora oggi che in Polonia. E non lo dico naturalmente perché dico quelli sono i paesi che crescono di più, quindi bisogna avere quel tipo di impianti. Dico semplicemente che bisogna naturalmente avere sempre un'analisi comparata sotto gli occhi per capire se è davvero il caso poi di accelerare conseguenze economiche così devastanti rispetto a un paese che perde già tanto di PIL, di reddito e di lavoro. Ma non intendo neanche per un secondo apparire come un indifferente rispetto a chi è morto di cancro e che ancora oggi vive a Taranto, purtroppo, come vive per via delle polveri ferrose e non solo per quelle. Grazie anche al presidente di Confindustria. Noi abbiamo le informazioni stradali e poi torniamo con Rocco Palombella della Will e col professor Gian Maria Grospietro. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. Allora, io a Jim Morrison per quello che mi riguarda ricordo a tutti che stiamo parlando della vicenda dell'Ilva. Sentiamo una telefonata prima di andare al professor Gian Maria Grospietro da Rocco Palombella della UIL. Una telefonata che ci viene da Antonio che chiama da Pisa e credo che sia un ex caporeparto, vero? Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, anche alla dottore. Dica. Io tra l'altro conosco di persona anche Rocco Palombella, lo saluto in anticipo, però vorrei quello che vorrei dare un contributo di informazione, insomma, da persona che ha vissuto per 16 anni, ha fatto il caporeparto degli altiforni su 27 di servizio, quindi penso di... Una certa esperienza ce l'ha, è indubitabile. Bravo, ecco, questo il senso dell'aiuto è questo che voglio dare sull'informazione, non perché rifarei esattamente quello che ho fatto. Lei che dice, si può contemporaneamente fare la messa in bonus e continuare a lavorare o bisogna interrompere? No, assolutamente, si deve continuare a lavorare. Faccio un esempio pratico, a Taranto ci sono 5 altiforni, non ci sono mai tutti in marcia. C'è sempre uno o due fermi, su quello fermo per esempio si potrebbero rimettere a posto fare delle bonifiche, giusto? Lei dice approfittiamo degli stop che sono quelli di manutenzione ordinaria, come abbiamo spiegando come funziona il ciclo continuo, nei quali degli stop di manutenzione ordinaria comunque delle riserve installate, certo, certo. Qualsiasi impianto, cocchieria, altoforno, acciaieria, il ciclo continuo prevede sempre delle riserve installate per poter lavorare. Chiarissimo. E quindi non vedo perché. Ora abbiamo cominciato a fare la kermesse degli sparanumeri, no? Su quello che serve, ma se non c'è un impegno serio da parte anche delle organizzazioni sindacali e mettere insieme un po' di gente pensante per fare, non per parlare e non per polemizzare, perfetto, bravo, perché è inutile sapere chi la colpa che c'era prima, cosa hanno fatto, chi erano, non c'è niente. Ora c'è una magistratura che ha preso atto di un esposto che qualcuno ha fatto, io so che è stato il sindaco, mi risulta, poi non lo so, e quindi ha fatto il suo dovere, insomma, non c'è chiesto di chi è contro, chi è. C'è da fare un risanamento, ok, lo possiamo fare in qualsiasi momento, io sono disponibile personalmente, io sono un pisano che è andato a lavorare a Taranto nel 70, no? Adesso sono rientrato anche a malincuore, che so benissimo, no? Però pure famiglia, la figlia, no, no, no, chiarissimo, però dice io sono a disposizione. Antonio dice: un conto è l'indagine relativa alle responsabilità eventuali negli anni del ritardo della messa in bonus, responsabilità che sono amministrative, responsabilità che possono essere penali. Io ritengo comunque che le ipotesi di reato su cui si perseguono essi sono attualmente domiciliari, sono di una gravità tale, cioè, capite? Voi pensate cosa vuol dire strage dolosa? Ma comunque, detto tutto questo, questo è un conto, ci dice Antonio da Pisa. Altro conto è la messa in regola che si può fare nei tempi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza interrompere la produzione. Su questo dice: i sindacati hanno da impegnarsi perché sia così e il lavoro non venga investito brutalmente. Rocco Palombella della Willow, abbiamo già avuto su questo, che impressione anche lui ha avuto da venerdì? Bisogna temere altre iniziative che facciano tornare indietro le lancette allo stop richiesto dal GIP già due volte, oppure no secondo lei? Ma a me sembra che la riunione di venerdì è stata una riunione importante, molto probabilmente anche di svolta, nel senso che le responsabilità primarie, sia quelle aziendali e quelle del governo, hanno in un certo qual modo abbandonato l'idea della contrapposizione e della carta bollata ed hanno invece stabilito un percorso. Un percorso che io ritengo che sia credibile e che tutto sommato è anche concreto. Nel senso che entro questi 40 giorni, cioè entro il 30 settembre, ci sarà la nuova autorizzazione che il Ministero dell'Ambiente dirà all'Ilva per poter continuare a produrre. E poi a partire anche dalla prossima settimana inizia l'iter parlamentare per quanto riguarda l'approvazione dei fondi, del decreto legge, per quanto riguarda l'ambientalizzazione della parte esterna dello stabilimento, perché qui la cosa che va ovviamente chiarita: è vero che noi non dobbiamo guardare avanti e non guardare indietro, però dobbiamo, voglio dire, renderci conto che questo stabilimento così grande, così grandissimo, anzi sono agevolato dalla testimonianza del caporeparto dell'Alto Forno, è uno stabilimento che ha bisogno di ammodernamento e di manutenzione continua con investimenti grandiosi, e quindi noi dobbiamo, proprio il periodo in cui lei, quella persona era a Taranto, quell'Ilva era un'Ilva pubblica, dove investimenti per l'ambientalizzazione dello stabilimento non sono stati pochi. Non sono stati fatti, esatto. Lo abbiamo ricordato, e come anche l'organizzazione dell'immenso parco minerale, che è quello da cui vanno le polveri nella città, si deve a scelte tutte fatte allora nei decenni passati, non è che è responsabilità di oggi. Però detto questo, allora, per Palombella c'è un iter disegnato oggi con tempi brevi, la nuova autorizzazione integrale ambientale, i nuovi stanziamenti sia dell'azienda con i fondi europei, tempi brevi di verifica e di attuazione. Io resto col mio punto interrogativo, perché da quello che ho capito come giornalista, l'interpretazione che il procuratore capo Sebastio, non il procuratore generale, che invece secondo me è sulla linea di venerdì, ma il procuratore capo Sebastio e il GIP Todisco continuano a ritenere, secondo me, che bisogna andare allo stop. Lo dico da giornalista, spero di sbagliare. Ripeto agli ascoltatori che tenteremo di ascoltare i rappresentanti del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, senza dei quali il confronto di oggi manca una voce, manca la voce di chi a Taranto dice: non ce la facciamo più, preferiamo lo stop con tutte le conseguenze economiche che possono essere immaginabili. Ma chiedo in conclusione a Gianmaria Grospietro, questa vicenda dal suo punto di vista, che cosa dice dell'Italia industriale di oggi? L'accelerazione della magistratura in realtà era necessaria secondo lei rispetto alle responsabilità che sono accumulate nei decenni? E comunque un'impropria invasione di campo, com'è che nessun altro paese risolve a colpi di manette contrasti tra ambiente e economia e lavoro come quelli di Taranto? Guardi, il problema è proprio quello della credibilità del paese, perché il fatto che si debba arrivare alle manette per trattare un tema che non è stato adeguatamente gestito dagli organi responsabili nelle rispettive responsabilità, fa sì che l'azienda poi non possa considerare con serenità una qualunque azienda, anche estera, che voglia investire in Italia, una gestione industriale. Io vorrei sottolineare un aspetto. Come diceva il caporeparto degli altiforni, una grande acciaieria ha in continuazione diversi altiforni in funzione e altri in manutenzione o in ristrutturazione. Fermare questa attività significa chiudere per sempre, perché i forni in attività che alimentano poi le fasi a valle sono quelli che danno i flussi finanziari che consentono di fare i forni nuovi, con nuovi parametri ambientali, con maggiori tutele e così via. Se si fermano i forni in attività, non ci sono più le risorse neppure per fare i forni nuovi, ma c'è di più. I clienti, che sono abituati a ricevere milioni di tonnellate l'anno di acciaio, ovviamente si rivolgono ad altre fonti. Quindi finisce tutto, non si riapre più niente. Tutt'al più rimarrà qualche centinaio di operai che faranno a spese dei contribuenti il risanamento ambientale per la misura in cui si può fare. Cioè, la mia idea è che la chiusura dell'acciaieria significa non solo la morte definitiva dell'impianto e di tutti gli impianti a valle, dei fornitori e degli indotti, ma significa anche la fine degli investimenti ambientali che l'Ilva può fare. Da quel punto in poi si farà solo col contagotte l'erario e quindi il contribuente. Io devo dire, nel ringraziare il professor Gian Maria Grospietro, che la penso come lui. Io penso che non sia un caso, ma sia una necessità che nessun paese avanzato, nessun paese al mondo intervenga su vicende così delicate come quella di un insediamento oramai che ha più di un secolo a colpi di giustizia penale. Lì funzionano le procedure ordinarie, lì funzionano i controlli amministrativi, i controlli ambientali, si mettono le imprese in condizione di capire negli anni quale sarà la redditività di capitali così intensi come sono quelli necessari nell'industria pesante, e non funziona tutto nell'implosione reciproca, magari di corruzione privata e corruzione pubblica da una parte e dall'altra del magistrato penale, che dice a questo punto: io intervengo qualunque sia la conseguenza, fiat justitia pereat mundus. Ecco, io a questo tipo di caos e casino italiano dico che bisognerebbe ragionare. E anche per questo che invito tutti ad andare sul sito www.fermareildeclino.it per capire se qualcuno dei nostri punti, del nostro manifesto, i 10 punti programmatici, se volete aggiungervi a più di 20.000 che hanno già detto sì. Nel frattempo, bentornati con noi, e l'appuntamento con me è a domani mattina. Radio 24. La passione si sente.